Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica da Gegè Telesforo e buona domenica a Riccardo Bomarzi e Francesco Tromba, operativi qui nel Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24. Ciao a tutti. Buona domenica Riccardo. Ti voglio fare i complimenti, Riccardo, perché ho ricevuto un sacco di messaggi di congratulazioni per la performance di Sarah J. Morris e Antonio Forcione, e anche prima, finalmente la musica dal vivo si sentiva benissimo, quindi i complimenti te li voglio girare. Ma i complimenti vanno fatti a loro, che non mi hanno fatto lavorare molto, devo dire, perché il suono ce l'hanno nelle mani e nella voce. Il segreto è quello, però guarda che ci hai messo anche del tuo. Bravo, ti posso fare i complimenti ogni tanto? Sì. I complimenti vuoi, Bomarzi? Un applauso a Bomarzi. Uno, tre, quattro. Uno, si fa così. Uno. Tre, quattro. Ecco, questo è un applauso. Okay. Allora, sì, scusateci ragazzi, ma siamo pronti anche per dare il via alla musica. Ispirati quindi da questa performance in duetto di Sarah J. Morris e Antonio Forcione ieri con la voce e la chitarra, mi sono lasciato andare e per l'airplay di questa sera ho scelto duetti. Duetti, solo duetti. Ti dispiace? Però uno non è un duetto. Uno è proprio una cosa in solitario, però con molti tracce. No? Ha fatto il duetto da sola. Sì, ha fatto tutto quello che poteva da sola, quindi ci siamo. Fatto sta che si può fare grande musica da soli o in compagnia di un carissimo amico e di un eccellente musicista. Non c'è bisogno di avere un grande impianto strumentale, arrangiamenti, eccellenti produzioni. Quando si è bravi, lo diceva Bomarzi, adesso lo ha confermato, le cose non possono che venire bene. Sì, e vengono anche più facili magari quando trovi un'anima gemella da cui accoppiarti, sì, ecco, musicalmente. Sì, perché fare musica non è facile. Bomarzi, glielo vuoi dire? No, lo sappiamo tutti, dai, non è, dai, va non bene. È da tutti. No, perché lui provoca, hai capito? È un provocatore. Allora, il primo duetto che vi voglio presentare, amici, è una coppia di strani personaggi, veramente presi così con le loro macchine fotografiche, così come sono ritratti all'interno del booklet, sembrano proprio due turisti nordici. Sì, anche un po' dei taglialegna quasi. È vero, spaccalegna. Sì, perché vi stiamo parlando del pianista Jiro Rantala e del chitarrista Ulf Wakenius. Sì, sono già i nomi abbastanza difficile da pronunciare. Sì, ma i nomi, insomma, non sì, così conosciuti nel nostro territorio, ma musicisti che noi apprezziamo e conosciamo molto bene. Ulf Wakenius è considerato uno dei maestri della chitarra lì nel nord Europa, poche volte è venuto nel nostro paese, ma è anche un eccellente compositore, veramente un musicista completo, così come Jiro Rantala, che spazia, si muove con il suo pianoforte da progetti con i quali rivisita repertorio classico in chiave jazz, oppure dischi di standard di jazz o dischi di canzoni rifatti invece con un impianto classico. Insomma, è uno che sul pianoforte e con la musica cerca di divertirsi e di sorprenderci ogni volta. Tra l'altro loro due sono, non è la prima volta che fanno un disco insieme, dovrebbero essere al terzo o al quarto disco insieme. In realtà è un po' più famoso Ulf Wakenius, famoso soprattutto per Ulf. Per essere stato il chitarrista del gruppo di Oscar Peterson alla sua morte, fino al 2007. È quando era ragazzino. Sì, invece Jiro Rantala è un po' meno famoso, però è un astro, diciamo, nascente, con una conferma vera e propria, perché ormai ha 47 anni, è una realtà vera e propria della musica. Nella fotografia tutte e due ne dimostrano almeno 10 di più, però sì. Va bene, sono Jiro, da vedere. Jiro Rantala e Ulf Wakenius, l'album si intitola Good Stuff e il brano è proprio quello che dà il titolo alla all'album, Love the Stuff, e poi fanno Ain't No Mountain High Enough, che è un vecchio successo che noi ben conosciamo qui al Soundcheck. E scrivono chi sono, vali a ripetere i nomi. Lo faremo Iro Rantala e Ulf Wakenius al Soundcheck di Radio 24. Da dove arrivano questi signori? Uno è Iro è finlandese. Iro è finlandese, invece Ulf è svedese. È svedese, comunque due maestri, anche loro registrano per una casa discografica di tutto rispetto. Quanti album belli produce la ACT tedesca? Tantissimi. Anche Rita Marco Tulli con Luciano Biondini hanno realizzato un progetto per questa casa discografica, riportando poi consensi in tutta Europa. Sì, perché ci sono delle etichette che probabilmente hanno dei canali di distribuzione ormai accreditati e agevolati. Sì, diciamo che l'ACT è molto forte nel nord Europa, soprattutto, cioè nell'Europa del nord, molto di più che invece ad esempio in Spagna, in Francia, un po' meno. È vero, e poi ci sono queste etichette come la ACT che hanno dei collegamenti, quasi delle corsie preferenziali verso alcuni festival importanti. Quindi se tu, per dire, se rientri nel roster degli artisti della ACT, poi con più facilità ti ritrovi a suonare in festival internazionali. Allora, ancora Iro Rantala e Ulf Wakenius, ok? Quasi giusto, in una composizione di Iro Rantala intitolata Palma, e il brano è bellissimo. Attenzione, perché qui possono anche bomarsi. Attento, tu sei uno che si commuove, le lacrime, tieni a freno le lacrime. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Non so quanti di voi avranno riconosciuto la voce di Ney Palm, ma noi vi proponiamo il sound e la mentalità artistica di questa musicista, cantante, interprete, compositrice e anche leader di una band famosissima ormai come Hiatus Keyote, che arrivano dall'Australia da diverso tempo. Forse siamo stati veramente... abbiamo anticipato i tempi, tromba. Sì. E questo è un male, te lo voglio dire, a volte è un male. Può essere uno svantaggio in alcuni casi. È vero, può essere uno svantaggio, uno deve sempre capire quando fa tendenza e quando diventa di moda. Deve arrivare al tempo giusto. Al tempo giusto, è proprio come i bucatini, no? Devono avere quella cottura, se no diventano una porcheria. Bene, questo è il Soundcheck Radio 24. Questa sera vi proponiamo produzioni che hanno come protagonisti o duetti, oppure in questo caso Ney Palm da sola, anche se poi sentite un impianto vocale come se avesse un coro chissà di quanti elementi, invece era lei che si è sovraincisa e fa tutto lei in questo album. Sì, poi in realtà no, ci sono anche dei featuring, pochi, però ci sono. Come si intitola la produzione? Needle Pow. Needle. Brano intitolato Crossfire, So Into You. A me piace. Sì, questo brano mi è piaciuto molto. Il primo singolo non mi aveva entusiasmato, non si capiva. Era un po' in mezzo. Ma noi lo abbiamo suonato, per informazione, no? Sì, lo abbiamo suonato. Abbiamo suonato anche So Into You, quindi con Ney Palm stiamo a posto con la coscienza. Sì. Giusto? Perché lei li sta pubblicando un po' alla volta. Il disco è uscito qualche giorno fa, il 20 di ottobre. Scusa, perché non ce l'ha mandato? Non ce l'ha mandato ancora. Però... Ma scusa, offendila? Adesso le scrivo. Manda le due o tre parolacce in calabrese, è capace che con la provocazione si muove anche Ney Palm. Allora, da Ney Palm invece ha un altro duetto, e questi signori stanno spopolando in tutto il mondo perché stanno facendo già concerti da anni e sono stati anche in Italia. Mi sa che si sono esibiti anche a Umbria Jazz, vero? Sì, sono due fenomeni, due talenti puri. Stiamo parlando di Romy e di Edmar Castagneda. Sì, c'è praticamente un incontro fra il Giappone e la Colombia. Romy Uehara, pianista della nuova generazione giapponese, è nata nel 79 questa ragazza. Ha iniziato a suonare da giovanissima, cioè a 7 anni già si esibiva con le orchestre. Sì, dappertutto, ha vinto premi, ha vinto competizioni in tutto il mondo. Poi non so se si è stabilita a New York, però credo che faccia base lì. Sì, si fa base lì perché anche Edmar Castagneda sta a New York. E si sono incontrati lì. Sì, si sono incontrati durante un concerto, ho letto, e da lì è nata la loro collaborazione in maniera spontanea, cioè non è un progetto studiato a tavolino, ma piano piano, cioè, hanno messo su un repertorio. Sì. Edmar Castaneda, che musicista, arpista! Sì, fortissimo, vi consiglio di guardare l'NPR Tiny Desk Concert di qualche anno fa di Edmar, è veramente micidiale. Allora, dice i Romi, amo Bach, Oscar Peterson, Franz Liszt, ma ama Jamal and Sly and the Family Stone, Dream Theater e King Crimson. Praticamente le piace tutta la musica, Bo Marzi. Io ci ho lavorato con i Romi, devo dire è stata una... Tu hai lavorato con i Romi? Ho lavorato nel 2012 con i Romi e posso dire un retroscena del soundcheck. Ti prego, dimmelo. E in pratica è arrivato questo pianoforte dal noleggiatore, ancora doveva essere accordato bene, lei si è messa a pulirlo tutto, ha pulito il dentro, il fuori, ha fatto un lavoro eccezionale per renderlo lucido alla vista. Ecco. Quindi, metodo giapponese. Ecco, il metodo Hiromi, questo è quello che devi imparare tu, tromba, prima di lasciare il Groovemaster Studio. Allora, Hiromi e Edmar Castaneda qui al Soundcheck Radio 24, questo è un live in Montreal, è il brano che ho scelto, è un super classico proprio del repertorio argentino, Astor Piazzolla, Liber Tango. Soundcheck, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. E qualche settimana fa sono andato a vedere un bellissimo concerto in un locale, in un club storico della nostra capitale, ovvero l'Alexanderplatz di Roma, e ho visto in concerto questi due meravigliosi artisti. Carlos Buschini con il suo basso elettrico a 6 corde e il meraviglioso, immenso Orazio Burgos alla chitarra. Un duetto, sono rimasto proprio a bocca aperta e ho chiuso gli occhi, mi sono lasciato andare, mio caro Francesco Tromba, con un bel bicchiere di vino e questi due signori mi hanno fatto impazzire. Che musicisti e che persone, perché poi subito dopo la performance naturalmente io mi sono fatto avanti, anche perché era presente la nostra amica Gisela, che mi ha introdotto al mondo musicale dei due argentini, e quindi abbiamo fatto amicizia. E ti posso confermare una cosa. Posso, Bo Marzi? Cosa? Preparati, perché sabato prossimo saranno qui al Soundcheck di Radio 24. Quindi tocca prepararsi per un'altra performance indimenticabile. Beh, bellissimo. Live saranno qui al Soundcheck di Radio 24 Carlos Buschini e Orazio Burgos, che qui abbiamo ascoltato in una composizione di Aranda, compositore argentino. La canzone è bellissima, mi sono anche tirato giù tutto il brano e tutta la melodia. Il brano si intitola Canción de Sara, bellissimo brano scritto da Aranda e Orazio Burgos, nato a Buenos Aires ma residente a Córdoba, dove insegna, sarà nostro ospite qui al Soundcheck di Radio 24. Io sono già emozionato, ma sarò scemo, dopo tanti anni ancora mi viene la pelle d'oca. Beh, la musica inizio fa a preparare effetto. Lo studio, quindi. Bravo, Marzi. Tromba, prima di andare via, una bella lucidata, stiratura e asciugatura. Prendo la scopa. Prepariamo lo studio. Intanto noi vi salutiamo e vi lasciamo con una performance di Orazio Burgos, tratta da un album di qualche anno fa intitolato Celebration. Il brano però non è una sua composizione, ma una composizione di Ralph Towner, un altro grande maestro, un mostro sia sul pianoforte che sulla chitarra, fantastico. Il brano si intitola Verde y Dorado, Orazio Burgos, con il quale vi salutiamo e ci risentiamo sabato prossimo alle 19:15 sempre soltanto su Radio 24. E vai.